Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata, l'ultima della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in attesa di sapere se e quando arriverà il nuovo governo. Stando alle fonti che abbiamo, sostanzialmente già domani potrebbe essere presentato, Enrico Letta potrebbe sciogliere la riserva e giurare. E quindi da questo punto di vista in mattinata la salita al Quirinale, la presentazione della squadra di governo al Presidente della Repubblica e poi nel pomeriggio il giuramento. Questo sembrerebbe lo schema fino adesso più probabile. Ne parleremo in apertura, anche perché mentre la politica a Roma cerca faticosamente la quadra, il resto del paese continua a soffrire, e oggi lo dice non l'ennesimo rapporto della Confindustria, della Confcommercio o della Confartigianato, ma la stessa Banca Centrale Europea, che ha detto: attenzione, la recessione europea ha colpito in particolar modo la struttura delle piccole e medie imprese, quindi in particolar modo Italia e Spagna. L'Italia infatti è un paese che per sua storia, pensate che le imprese sotto i 50 dipendenti in questo paese sono il 97% del totale, quindi la stragrande, la quasi totalità, sono 3.700 le imprese che hanno più di 250 dipendenti, vado a memoria. Dicevo, ha colpito soprattutto la nostra struttura di impresa. Infatti la Banca Centrale Europea, che ha pubblicato oggi l'indagine periodica sull'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese dell'area euro, ha coinvolto 7.500 imprese, di cui 1.000 italiane, e dice: attenzione, le imprese medio piccole italiane faticano a trovare credito bancario mentre accusano cali di fatturato e utili. Le piccole e medie imprese tedesche sono quasi le uniche ad aver avuto miglioramenti di fatturato, mentre i cali più forti si sono avuti in Italia, Spagna, Grecia e Portogallo. Nel 77% in Grecia, nel 60% in Spagna e nel 60% anche in Italia, le piccole e medie imprese sono quelle che hanno avuto i maggiori cali del fatturato. Quindi, tradotto in termini, la crisi dell'area euro, la recessione / stagnazione, si sta scaricando, per quello che riguarda i soggetti di impresa, sulle piccole, piccolissime, e anche sulle medie. Tra l'altro, le imprese italiane, dice sempre la Banca Centrale Europea, sono quelle che hanno dato il maggiore contributo, ossia sono quelle da cui è arrivata la maggiore richiesta e necessità di prestiti bancari di scoperti, mentre all'opposto quelle tedesche sono quelle che hanno avuto minor necessità di prestiti bancari scoperti. E tra l'altro c'è un calo effettivo dei prestiti delle banche effettivamente erogate alle imprese dell'area euro. Allora qui il punto è molto semplice, anche se la soluzione non è così semplice. C'è una banca centrale, che è quella europea, che pur con mille limiti e vincoli per il suo mandato ha fatto il possibile, anche per non rischiando di irritare anche i tedeschi, per garantire la solidità delle banche, e quindi il piano OMT di salvataggio e il piano anche anti-spread, b, per immettere liquidità nel sistema. Ricorderete il piano da 1.000 miliardi di euro, di cui 270, vado a memoria, miliardi sottoscritti dalle banche italiane, che di liquidità, e tutte le banche italiane hanno fatto ricorso a questo. A cosa servivano questi soldi? Servivano a sistemare i conti delle banche che avevano in molti casi obbligazioni bancarie in scadenza, ma anche poi a riaprire i cordoni della liquidità per le imprese e le famiglie. Ora, in questa seconda fase non siamo mai entrati, e lo ha detto anche questa settimana il numero uno, il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Cioè, la cinghia di trasmissione si è fermata dalla BCE alle banche, non è mai arrivata dalle banche alle imprese o ai privati. E devo dire che poi in Italia, ma ne parleremo fra poco, la Banca d'Italia, con massimo rispetto, non è che abbia fatto tutta questa moral suasion, questa pressione sulle banche italiane per dire oh, iniziate a vedere con una sana e prudente gestione come erogare prestiti, non potete solo continuare a comprare bot e BTP e obbligazioni con i soldi che avete preso in prestito dalla Banca Centrale Europea a un tasso praticamente inesistente. Però si è fermato tutto. Questo è il tema d'apertura, perché a Roma si cerca la quadra, mentre l'Italia, diciamo, delle imprese è in estrema sofferenza, non dico muore, ma in estrema, estrema sofferenza. Vedo adesso un'agenzia che Berlusconi ha confermato il suo ok a Letta, era già di questa mattina la notizia anticipata, stasera possibilmente vi sarà probabilmente il colloquio tra Silvio Berlusconi e Enrico Letta, ma dalle dichiarazioni anche di Silvio Berlusconi mi sembra che si vada verso una strada leggermente in discesa, perché dice che non ci sono nodi da sciogliere, ha detto Berlusconi, non mi sembra che vi siano nodi da sciogliere. E allora questo delle piccole imprese italiane, che vale per le imprese manifatturiere, artigiane, del commercio, così, sarà uno dei primi temi da affrontare per questo governo. L'altro grosso tema sarà che cosa dire in Europa. Oh, faccio notare che è bastato che Enrico Letta, quando ha accettato l'incarico con riserva, dicesse: chiederemo all'Europa di adottare un'altra linea, non la sola austerità non va bene, e si è dimostrata, ha dimostrato tutti i suoi limiti, si è dimostrata, non dico controproducente, ma è in un vicolo cieco, quindi è bastato che vi fosse una dichiarazione politica, non da governo tecnico, ma da governo politico, per urtare le sensibilità tedesche. Ieri ne abbiamo parlato, il ministro delle finanze Schäuble, che ha detto no, attenzione, l'Italia non dia la colpa a noi dei problemi suoi, potremmo ragionarne, ci sono problemi nostri che risolveremo noi, e ci sono richieste arrivate in questi due anni dalla Germania. Il fiscal compact, caro Schäuble, ossia l'obbligo per i paesi entro il 2000, entro 20 anni, di 2020, scusatemi, di arrivare a una riduzione del debito pari al 60% del PIL, che per noi vorrebbe dire 3 punti di PIL all'anno, ossia una manovra solo per ridurre il debito di 60 miliardi circa l'anno. Beh, questo fiscal compact l'ha voluto la Germania in cambio del via libera alla rete di protezione della Banca Centrale Europea, non l'abbiamo voluta noi. Allora, obbligare i paesi europei a tagliare in un momento di recessione significa, come continuiamo a dire e come dicono tutti gli economisti, più diciamo, i premi Nobel all'economia, i grandi investitori, significa aumentare la crisi. È dimostrato che un taglio di un punto di PIL è un rapporto 1-1, non 1-0,5, quindi ti porta a ridurre il deficit di un punto, ti fa calare l'economia di un punto stesso, ok? Allora, queste sono responsabilità europee, non responsabilità italiane. Lo dico a Schäuble, perché voi sapete che se non polemizzo con il governo Merkel almeno una volta al giorno, poi non riesco a digerire. E dicevo, di questo parleremo nella seconda ora, perché se basta una dichiarazione del premier politico incaricato dal Presidente della Repubblica, non oso pensare cosa capiterà quando l'Italia andrà a fare quello che avrebbe già dovuto fare e non ha saputo fare il governo Monti, per un eccesso di zelo, un eccesso di riverenza, un eccesso di europeismo, non lo so, ossia andare a Bruxelles e dire assieme alla Francia e alla Spagna: bene, manteniamo gli impegni sul rigore dei conti pubblici, ma adesso iniziamo a tirar fuori anche delle risorse per far ripartire la domanda interna europea, e quindi piano di finanziamenti, eurobond, chiamateli come volete, non mi interessa. Chissà quali reazioni avremo dalla Germania, se è bastato avere queste reazioni per una frase di Enrico Letta, e chissà che reazione avremo da qua a settembre. Ancora 349-238-6666 per i vostri sms, e invece la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. -0,34% in questo momento Milano, -0,90% Parigi, -0,30% Francoforte e -0,60% Londra. Questo è l'andamento delle borse il Dow Jones più 0,13%, ancora Saipem più 3,12%, Telecom più 1%, Mediolanum più 1%, Ansaldo più 1%, Mediobanca più 0,80%, fronte opposto invece Banco Popolare meno 3,50%, Fiat meno 2,5% come Prismian, A2A meno 2,16%, UbiBanca meno 1,80%, Buzzi Unicem anche, Finmeccanica meno 1,70%, Mediaset meno 1,5%, Enel Green Power meno 1,20%, Enel meno 1%, Autogrill meno 0,90%. Euro su dollaro quota 1,30,33. Ancora andiamo avanti con le notizie. L'oro prosegue il suo rimbalzo a 1.485 dollari al barile, il petrolio apre in calo a 93,17 dollari l'oncia. Il petrolio apre in calo a 93,17 dollari al barile e l'oro è in rimbalzo chiaramente a 1.485 dollari l'oncia. In Giappone, dalla Giappone arriva la notizia che dopo la decisione già presa ieri dagli Stati Uniti, anche le autorità nipponiche si apprestano a dare in serata via libera alla ripresa dei voli del Boeing 787 Dreamliner, quello ricorderete bloccato dopo un insieme di problemi soprattutto agli impianti elettrici, si surriscaldavano le batterie. Dal Giappone però arriva anche la notizia che la banca centrale giapponese ha lasciato invariata la politica monetaria e la banca centrale giapponese ha comunque alzato le stime sul PIL nipponico, portandole al 2,9% nel 2013 e all'1,4% nel 2014. Il dato sul PIL americano è un po' sotto le attese, si aspettava un 3% nel primo trimestre, ha fatto un più 2,5%, però è in decisa accelerazione rispetto agli ultimi tre mesi del 2012, perché negli ultimi tre mesi del 2012 fece più 0,4%, adesso ha fatto più 2,5%, è una bella accelerazione. E soprattutto sono cresciuto in America, guarda un po', le spese dei consumatori più 3,2%, l'aumento più alto degli ultimi due anni. Non sarà che l'America, stampando moneta, tenendo i tassi ai minimi, garantendo liquidità, ha fatto riprendere i consumi interni e invece noi qui, continuando a aumentare le tasse e i tagli, non li faremo mai ripartire in questo modo? Boh. E poi una notizia abbastanza interessante, perché insomma noi abbiamo raccontato negli anni in cui è scoppiata la crisi 2008-2009 i deliri di onnipotenza che avevano sostanzialmente coinvolto tutti i grandi banchieri di Wall Street, gli dei dell'Olimpo. Allora, Fabrice Tour è uno dei, il Fabulous Fab, come era chiamato, ex manager di Goldman Sachs, accusato di frode della Consob americana, è tornato a sedersi sui banchi di scuola per cercare di avviare una nuova carriera, quella accademica. Sta frequentando la University of Chicago per ottenere un dottorato in economia. Si dedica anche agli altri studenti, li aiuta dopo le lezioni. È anche popolare perché gioca bene a calcio, insomma. Lui era salito alle cronache, lo ricordo, perché l'indagine della Consob americana, della SEC, sui derivati avevano portato a essere lo stesso Tour l'uomo centrale nella causa avviata dalla SEC nei confronti di Goldman Sachs per il prodotto Abacus, usato dalla banca e dagli investitori per scommettere contro il mercato immobiliare. Cioè, cos'era successo? Che mentre il grattacielo crollava, loro scommettevano proprio sul crollo, che non è il massimo della vita, no? E lui stesso si definì Fabulous Fab in un'email del 2007 dicendo appunto: l'intero edificio sta per crollare da un momento all'altro, solo un potenziale sopravvissuto sono io, il Fabulous Fab, ancora in piedi in mezzo a tutti questi complessi prodotti esotici da me creati senza necessariamente capire tutte le implicazioni di questa mostruosità. Complimenti, cioè, altro che apprendisti stregoni, era lì che scommetteva per il crollo, un crollo che lui stesso in parte aveva contribuito a generare con strumenti che definiva talmente complessi, talmente esotici, che non avevamo capito tutte le implicazioni di queste mostruosità. Adesso fa lo studente modello, vabbè, diamogli una second life, una seconda possibilità. Dall'Europa, allora, la notizia più importante è arrivata poco fa. La Commissione Europea ha accolto con favore l'adozione del programma di riforma di stabilità della Spagna. Che cosa vuol dire in sostanza? Vuol dire che alla Spagna vengono dati 2 anni in più per tornare a un deficit al 3% o sotto il 3%, quindi invece che 2014-2016. Perché è molto importante? Perché noi ci siamo impegnati con il governo Berlusconi prima e Monti dopo a arrivare al pareggio di bilancio quest'anno. Però è chiaro che se dall'Europa inizia ad arrivare un segnale che puoi avere anche 1 anno, 2 anni in più, purché tu sia virtuoso, purché poi arrivi a questo obiettivo, cioè si tiene in considerazione il fatto che l'economia non sta crescendo e ridurre il deficit quando sei in recessione è molto pericoloso. Beh, è un segnale importante anche per l'Italia. Non sto dicendo che anche a noi verranno dati 2 anni in più, sto solo dicendo che una volta che tu hai il caso spagnolo come precedente, beh, non puoi poi chiedere un rigore totale all'Italia, magari ci puoi dare 1 anno in più, che ci permetterebbe di respirare anche 1 anno in più. Oh, adesso sentiamo cosa dice il New York Times, che non è un pericoloso quotidiano comunista o socialista, e né è antitedesco per definizione, perché se in Francia tutti i socialisti hanno pubblicato un testo sul quotidiano Le Monde in cui dicono basta con l'austerità, è l'egoismo della Merkel, anzi il testo esatto è puntano il dito contro l'Europa dei conservatori e l'intransigenza egoista della cancelliera Merkel, sono i francesi che lo dicono. Il New York Times, dicevo, scrive oggi: la recessione che ha colpito i paesi del sud Europa sta dilagando a macchia d'olio e potrebbe raggiungere anche il nord dell'Europa. La maggior parte dei paesi del mondo soffrirebbe degli effetti di una recessione in Germania. La Germania e gli altri paesi dell'Unione Europea rappresentano tutti assieme l'area euro, la seconda maggiore economia al mondo e il maggior partner commerciale degli Stati Uniti. E questa è la preoccupazione che l'America ha sulle politiche di solo rigore. Faccio notare che il New York Times parla di Nord Europa e Sud Europa, a mio avviso correttamente. Io sono molto stufo di sentire anche gli ospiti che abbiamo in questo programma, non glielo farò più dire, quando parlano dalle banche d'affari londinesi oppure i paesi periferici. Ma che è sto paese periferico? Periferico dove? Allora anche l'Olanda è periferico, no? Nord e sud, senza dare periferia e centro, che già sembra chi sta bene nella via del centro e chi abita nelle banlieue, nei casermoni di periferia, ma stiamo scherzando. (Ride) 349-238-6666 per i vostri sms, Facebook, la pagina di Focus Economia su Facebook per quello che riguarda intervenire attraverso la rete. Adesso abbiamo, prima di arrivare ai temi della austerità ma soprattutto del finanziamento delle imprese del prossimo governo Letta, abbiamo purtroppo, dopo aver criticato la Germania la politica dell'austerità, torniamo a criticare i casi di casa nostra. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Allora, prima di iniziare con questo Spoon River degli sprechi della nostra amministrazione pubblica, regioni, comuni e quant'altro. Io vorrei un minuto di raccoglimento per chi ha vinto il lavoro più bello al mondo. Almeno ogni tanto arrivano queste notizie, però questo obiettivamente è un ragazzo di 22 anni a cui andrebbe toccata la schiena. Perché? Si chiama Sebastian Smith ha 22 anni, è inglese. Sapete che lavoro ha prevalso su 2000 candidati e si è aggiudicato quello che viene definito il lavoro più bello al mondo, il lavoro di scivolatore professionista. Cioè lui deve viaggiare tutto spesato, più con uno stipendio di 13.000 euro per 2 mesi, più i bonus, e andare a testare una ventina di scivoli mozzafiato di parchi acquatici in giro per il mondo. Sicuro. 22 anni, 13.000 euro per 2 mesi, farà il giro del mondo sto ragazzo. Ha risposto a un annuncio dell'agenzia di viaggio inglese First Choice, che per i suoi parchi acquatici cercava uno scivolatore professionista, oltre 2.000 le candidature, e dovrà collaudare gli scivoli del gruppo Splash World Resorts in Europa, Nord Africa, Turchia, Egitto, controllare l'altezza, la velocità, la quantità d'acqua, gli aspetti legati alla sicurezza degli scivoli e tenere aggiornato su Twitter e Facebook un diario. Al termine del contratto, come buona uscita, avrà anche un soggiorno di 7 notti per 2 persone in un resort all inclusive. Visto che noi abbiamo raccontato, si è arrabbiata una signora degli avvistatori di neve in Friuli, mi ha detto: ma guardi che costano pochissimo, ho capito. E abbiamo avuto anche il prototipo per l'avvistamento dei daini in Lombardia, una cosa del genere, e gli istruttori di sci da fondo. Io penso che, insomma, molti di questi candidati potrebbero correre la prossima volta, perché sono pronti, sono già pronti a fare lo scivolatore professionista. Io quando ho letto la notizia dello scivolatore professionista pensavo si riferisse ad alcuni nostri politici, però mi ero sbagliato. Andiamo invece alle cose più serie. Lo scandalo in Basilicata è un germinaio, perché la Procura della Repubblica di Potenza si è accorta che scusatemi, nello spreco e nei soldi utilizzati dai gruppi consigliari in Basilicata, sono 2 assessori di centrosinistra arrestati e il capogruppo del PDL. Allora, sentite cosa facevano questi. Portavano in vacanza, con i soldi dei contribuenti lucani, e non solo, anche le amanti, con viaggi spacciati per missioni istituzionali. Ma arrivavano a raccogliere gli scontrini da terra, scontrini di altri clienti, pur di metterli nel rimborso spese. Ma questo voglio dire, ma manco Totò, ma manco io non. In modo da aumentare i rimborsi, molti consiglieri hanno portato la moglie in vacanze in alberghi nazionali. In un paio di occasioni il giudice utilizza però la formula in compagnia di persona non autorizzata, cioè non dice che è la moglie, dice che è qualcun altro. Ora io dico: ma tu ti porti l'amante con i soldi di noi contribuenti in vacanza e poi lei ti vede raccogliere gli scontrini per terra? Minchia, un po' di eleganza, mai, eh? Pensate che c'è una vicenda definita allarmante, un rimborso di 15.000 euro, perché poi non stiamo parlando della pensioncina Maria, col massimo rispetto per la pensioncina Maria e col fatto che non lo devi fare comunque. 15.000 euro di rimborso per uno di questi viaggetti. La persona coinvolta rende dichiarazioni che sono molto più eloquenti di qualsiasi commento, utili per comprendere l'effettiva natura del rapporto con il consigliere regionale. Io vorrei sapere queste dichiarazioni che ha reso. Più eloquenti di qualsiasi commento, utili per, cosa avrà detto? Ero amante. No. Diverso è il caso che riguarda gli scontrini raccolti per terra. Erano incongruenti con altre rimborse o con orari di emissione che non c'entravano nulla col rimborso che chiedevi, per cui tu portai scontrini dal ristorante o del bar di 2 ore dopo, di 3 ore prima. Ma manco rubare, sanno questi. Per gli inquirenti sarebbero stati presi per aumentare il rimborso, magari in fila in un autogrill. Con l'amante che ti guarda. Chiudiamo con Roma, dove l'ARSIA, l'Agenzia Regionale per l'Agricoltura, insiste. Ha un consiglio di amministrazione in scadenza, però riconferma le donazioni a pioggia emerse a dicembre, con interventi a sostegno delle più stravaganti iniziative. Mi date una maiella, per favore, che qua non mi basta Rino Gaetano. perché abbiamo iniziative dell'Agenzia Regionale per l'Agricoltura incredibili, anche perché si chiama Agenzia Regionale per l'Agricoltura. Vai, vai, vai. Allora, che cosa c'entrano i soldi dell'Arsial per un festival della Movida a Tor Vergata, per un torneo di calcio balilla, per le sagre al face painting e poi psicologi pagati 200 euro a seduta, ring intesi come ring da pugilato, gonfiabili per esibizioni targate Gladiator? Ma che cavolo c'entra con l'Agenzia Regionale per l'Agricoltura? Sbandieratori, costosi showroom, affitto di muli e distribuzione di prodotti agroalimentari. Io un giorno faccio un libro su queste cose. Affitto di muli. Dunque, tutte queste attività l'Arsia le intendeva sostenere con aiuti congrui, ora congelati da un punto di vista amministrativo, però sono riconfermati sul sito dell'Arsia, dove ricompaiono nella sezione trasparenza, valutazione e merito. E questi impegni andranno prima o poi onorati. Dalla regione arriva una precisazione: prima di pagare la nuova amministrazione effettuerà le verifiche necessarie. In tutto sono 300.000 euro, per quasi 300.000 euro, ma poi ci sono 300.000 euro alla voce contributi e progetti di promozione enogastronomica del Lazio, che dice vabbè, che dovrei promuovere in questo modo. Allora, anche perché se sei l'Agenzia per l'Agricoltura, forse dovresti aiutare gli agricoltori, magari fare promozione seria dei prodotti agricoli, no? Anche all'estero, non lo so, organizzare consorzi. No, no, ma che? Ma figurati, ma che stiamo scherzando? Allora, Más de una noche, serata di Movida a Tor Vergata, presentata insieme a un meeting, conferenze e degustazione di vino e birra. Naturalmente la birra è un tipico prodotto dell'agricoltura laziale. E Más de una noche prevedeva tra l'altro l'installazione di un ring gonfiabile per esibizioni, prove d'arte marziale Krav Maga, che è la tecnica di combattimento, lo dico per inciso, la conosco, del servizio segreto israeliano del Mossad, il calcio balilla per i più pigri. Ma sembra di essere ai tempi del fascismo, quando Mussolini faceva obbligare Geraci a saltare il fuoco, il cerchio. Vabbè, calcio balilla per i più pigri, 6 attrezzature dal costo di 1000 euro per il calcio balilla per i più pigri, 20.000 euro complessivi, in cui sono anche 2.000 euro di manifesti, gettoni da 200 euro a testa per uno psicologo. Ma che ci faceva lo psicologo a Master una noce? Sì, forse aiutava i partecipanti, perché uno va anche fuori di testa quando vede queste cose. Un sommelier, un nutrizionista e un tecnico della circolazione stradale. Che cosa c'entra un tecnico della circolazione stradale in una serata di Movida a Tor Vergata? Boh. La sovvenzione è per l'associazione sportiva L'Equipe, diretta da Carlo Folino. C'è un altro Folino, Andrea, che ha ottenuto 22.000 euro a nome dell'associazione L'Officina del Sogno per la manifestazione Le Bancarelle di Roma, prevista nel centro commerciale Le Torri, dove si farà anche del face painting. Tutto bene, ma perché deve pagare la Regione Lazio queste cose? Nuovi orizzonti, infine, con la manifestazione In Vino Veritas, alla faccia dell'originalità, che utilizzerà lo showroom Giulio Cesare, che costa 2.000 euro, il 19 gennaio, e riceverà dalla regione 15.000 euro di sovvenzione, 600 se ne andranno in gadget e altrettanti per l'impiego di 4 sommelier. E le altre sovvenzioni, l'applauso non poteva non scattare, dal comune di Cave, l'associazione Amici di Cave si è fatta avanti per due manifestazioni legate al vino novello e alla bruschetta, 4.200 per la prima, di cui 1.500 euro solo per la banda musicale, 4.000 euro per la seconda, che consiste nel gustare pane e olio, e voglio dire, e ti devo, mica è olio di ricino però, comunque. E poi la Città del Gusto Natale 2012, fondi, questa che è Città del Gusto Natale 2012, ha avuto 12.000 euro e altri 5.000 vanno all'associazione Arcobaleno per il carnevale itinerante. C'è pure l'Università Santa Rita con le giornate sulla nutrizione e prodotti tipici regionali, 7.000 euro, battuta però da Santissima Cosma e Damiano con pane, olio, vino e fantasia, 9.000 euro, alla faccia della fantasia, quinto potere, lo voglio far sentire. E poi diamo anche un bel applauso dopo quinto potere, vai! Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Scusami, ti ho fatto un po' aspettare, ma guarda che questa cosa qui, non so se l'hai sentita, di come spende i soldi della Regione Lazio e delle amanti che i consiglieri della Basilicata si portavano in giro e poi raccoglievano gli scontrini per strada per aumentare la spese. Non ci si può chiedere. Ti chiedo ancora 3 minuti di pazienza, perché poi con te invece vorrei analizzare lo scenario politico, ma tenendo insieme anche quello che oggi denuncia, tra virgolette, la Banca Centrale Europea: le piccole e medie imprese italiane sono quelle che stanno più soffrendo per questa crisi. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Guido Gentili, prima la cronaca, poi il resto, e quindi la notizia che riguarda le piccole imprese italiane. Dalle dichiarazioni che ho visto anche da parte di Berlusconi, che ha detto nodi da sciogliere, non mi sembra, con tutta la cautela del caso, si sta andando verso la formazione del governo. Sì, mi sembra proprio di sì. La strada da questo punto di vista è in discesa, anche se occorrerà poi vedere l'ultimo round, che è la composizione del governo e quindi i nomi dei ministri, in particolare per quello che riguarda due posizioni fondamentali, una l'economia, l'altro il Ministero della Giustizia, e come riuscirà Enrico Letta a calibrare le esigenze che arrivano dai vari partiti, tenuto conto anche dei grandi mal di pancia che continuano nel Partito Democratico, perché anche oggi Renzi ha detto che ci sarà certamente la fiducia, ci sarà una sostanziale compattezza, ma insomma ha anche fatto capire che saranno parecchi anche i possibili no, e quindi questo è un problema che Rigoletto ovviamente ha come uno tra i primi sul suo tavolo. Mi sembra che il nodo sia soprattutto sulla provenienza dei ministri. Si è capito se saranno tecnici o anche, o meglio, se oltre ai politici vi saranno anche dei tecnici? Ma sì, sembra di sì, nel senso che sembra che sia un dosaggio molto attento, molto calibrato tra esigenze anagrafiche, quindi di dare l'immagine e il messaggio di un governo sostanzialmente snello e anche giovane dal punto di vista anagrafico, ma che poi ci possano essere anche dei nomi tra virgolette pesanti, quindi politici. In primo luogo si parla dei nomi, sono quelli di Giuliano Amato, di Massimo D'Alema, quindi è possibile che su questo ci sia una calibratura mista tra tecnici e politici, perché in fondo poi non dimentichiamo che il Presidente del Consiglio incaricato è il vice segretario del PD, e quindi dall'altra parte, cioè dal PDL, reclamano una presenza politica importante. Questo sul fronte appunto della compagine di governo. C'è un altro aspetto, io vorrei fare un titolo un po' forte, come si dice in gergo: mentre Roma discute, che è l'opposto di quello del detto, mentre Roma discute l'Italia brucia. Sì. E cioè, dove brucia? Brucia la struttura di impresa del nostro sistema produttivo. Ora è 2-3 settimane che continuiamo a raccontare a raffica dati. Dal 1 gennaio all'8 aprile sono state chiuse 4.218 imprese manifatturiere, il 13% in più. Nel 2012 hanno chiuso 34 imprese al giorno, praticamente in un'ora e mezza di focus economia, levate le ore notturne, chiudono 3 imprese manifatturiere, 140.000 imprese artigiane a rischio, il 10% del totale. E insomma, oggi dalla Banca Centrale Europea, non da Confindustria, arriva un allarme importante, perché dice la BCE che ha fatto un'analisi dei finanziamenti delle banche alle piccole e medie imprese dell'area euro, 7.500 imprese coinvolte, 1.000 italiane. Ha detto: attenzione, tutte le piccole e medie imprese italiane faticano a trovare credito bancario, mentre accusano cali di fatturato e utile. Praticamente da noi il 60% delle PMI hanno segnato i maggiori cali di utile. in Grecia il 77%, in Spagna il 60%. E dice la stessa Banca Centrale Europea: le imprese italiane sono quelle che hanno più segnalato la necessità di prestiti bancari e scoperti, mentre all'opposto quelle tedesche hanno avuto, dalle tedesche sono arrivate il minor numero di segnalazioni, e quelle tedesche invece hanno avuto anche un aumento di fatturato e utili. E chiude la BCE dicendo: qui si sta protraendo il calo dei prestiti bancari effettivamente erogati alle imprese dell'area euro, in particolar modo a quelle italiane e spagnole, cioè delle banche italiane e spagnole, tant'è che il vicepresidente Tajani ha detto è necessario riaprire i rubinetti del credito. Sentiamo un passaggio anche di Enrico Letta su questo e poi la tua analisi, Guido. Con grande determinazione mi metto in questo impegno perché penso che il Paese abbia bisogno di risposte. Penso soprattutto che abbia bisogno di risposte quella parte del Paese che soffre, quella parte che ha oggi la difficoltà maggiore sul terreno del lavoro, il lavoro che non c'è, il lavoro che si è perso, le imprese che chiudono, le piccole e medie imprese italiane, il cuore del nostro sistema produttivo. Il senso della povertà che cresce, i giovani che vanno via dall'Italia perché non trovano occasione nel nostro paese. Il primo importante impegno è quello di dare risposta soprattutto a questa emergenza, che è diventata un'emergenza enorme e insopportabile. Allora, Guido Gentili, a Roma si discute, si cerca di trovare la quadra mentre il paese brucia. Sì, il punto è questo, la foto che ha fatto la Banca Centrale Europea degli ultimi sei mesi, nel periodo compreso tra ottobre del 2012 e marzo del 2013, è una foto tremenda dove spicca il record negativo che riguarda le piccole e medie imprese italiane e spagnole, che come ricordavi tu raggiungono dei risultati pessimi dal punto di vista degli utili e del fatturato, e insieme denunciano una carenza di credito molto molto molto forte, cosa che preoccupa giustamente il Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, perché questo ovviamente significa che non è corretto il canale di trasmissione della politica monetaria, e quindi i soldi si fermano nelle banche e non arrivano all'economia reale. L'economia reale è il grande problema del sistema italiano in questo momento, come sappiamo, e ovviamente si capisce bene che, riguardando in particolare le piccole e medie imprese, che sono l'ossatura del nostro sistema manifatturiero, e le difficoltà sono enormi e le proposte non mancano, a partire da quella che è stata avanzata anche dal Sole 24 Ore per creare un nuovo veicolo che serva a questo, sull'esempio anche di altre esperienze che ci sono in Francia, ci sono in Inghilterra, diverse tutte, anche allo studio della stessa Banca Centrale Europea, però questo grande dibattito ancora non trova uno sbocco operativo. Questo è il problema, e ci auguriamo di questo tema. Tra l'altro io mi occuperò appunto in un editoriale di domani sul Sole 24 Ore, perché questo è un tema assolutamente decisivo anche per quello che riguarda le prospettive del nuovo governo, e quindi bisogna trovare delle soluzioni operative perché questo credito vada dalle banche a prestiti non doppi rispetto, come accade oggi rispetto alla Francia e alla Germania, vadano alle imprese e quindi tornino in circuito per alimentare l'economia reale, perché questo è il nostro problema. Sì, un'ultima cosa, Guido, la risposta dopo il traffico però. Tu hai ragione a ricordare, lo diciamo molte volte anche noi, che, e l'ho detto lo stesso Mario Draghi a inizio settimana, Draghi ha detto, traduco e forzo un po' il concetto: ho dato alle banche dell'area euro 1.000 miliardi di prestiti per garantire liquidità, per garantire che potessero ricomprarsi le loro obbligazioni a tassi agevolati, ma l'obiettivo era, siccome la prima tranche, in effetti i primi 500-490 erano proprio per mettere in sicurezza le banche. La seconda tranche, faccio notare che le banche italiane hanno avuto più di 200 miliardi da questo, era per far arrivare questi soldi alle imprese e alle famiglie, e quindi la cinghia di trasmissione. Dice Draghi: la cinghia di trasmissione si è fermata, non sono mai arrivati, e questo è il fronte europeo. Però oltre alla Banca Centrale Europea, Guido, c'è anche la Banca d'Italia, Draghi si occupa di tutte le banche dell'area euro e fa un discorso generale, anche se ha detto che in Italia la situazione è particolarmente difficile, ma la Banca d'Italia, il governatore Visco, potrebbe fare una moral suasion sulle banche italiane, a dire: signori, basta comprare solo BOT e BTP, quando ci sono le condizioni nessuno vuole prestiti dati in maniera non sana e non prudente, ma un po' di rischio, un po' di valutazione, non potete far mancare la liquidità al territorio nel momento in cui le imprese hanno fatica a fare questo passaggio. La tua risposta dopo il traffico. Allora Guido, va bene la pressione di Mario Draghi, ma forse anche da Visco si potrebbe attendere una sferzatina un po' più forte, no? Beh, certamente da Visco e dalla Banca d'Italia, attrazione Visco appunto, che ha avuto anche degli spunti interessanti per quanto riguarda il sistema bancario, in particolare sul, diciamo, l'esigenza ad esempio di tagliare il numero dei consiglieri, le poltroni, di evitare gli incroci tra le banche, quindi insomma ha avuto dei moniti piuttosto importanti su questo terreno, molto meno sul discorso invece della trasmissione, diciamo, della politica monetaria, e che ovviamente non riguarda in particolare la Banca d'Italia, ma riguarda, diciamo, però nella parte relativa a come le banche italiane, diciamo, prestano o non prestano i soldi alle imprese. Su questo terreno ci sarebbe molto da fare in termini di moral suasion, perché sappiamo tutti, lo dicono in parte anche gli stessi banchieri, che bisognerebbe fare degli sforzi in più per dare ad esempio credito alle imprese che lo meritano, ma che al di là di queste pure importanti ammissioni, però nei fatti continuiamo a registrare mese dopo mese invece un irrigidimento della situazione del credito bancario, che come sappiamo nel nostro paese è il canale principale di finanziamento per le imprese, perché è un po' un tratto costitutivo del nostro capitalismo familiare, perché non si ricorre poco, molto poco al mercato, ai mercati finanziari e ai mercati azionari, e il grosso, diciamo, è invece il credito bancario, quello, diciamo, l'asset più importante, e quindi questo è il terreno decisivo, e su questo c'è da attendersi sperabilmente un intervento più duro della Banca d'Italia su questo terreno. Allora, mentre ti ascoltavo, ci ha raggiunto in collegamento il presidente della piccola industria di Confindustria, colui quale ospitò, organizzò il convegno a Torino di 2 settimane fa, e mi riferisco a Vincenzo Boccia. Vincenzo, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, senta Presidente, da questo punto di vista però, insomma, anche voi potreste fare un po' di moral suasion nei confronti della Banca d'Italia o no? Sì, qui abbiamo però due questioni da vedere, come dire, parallelamente. Una è la questione crescita e una è la questione credito. Noi sono anni che cerchiamo di fare una association sulla questione credito, alcune cose siamo riusciti a farle, altre no. Alcune, mi riferisco per esempio alla famosa moratoria che ha significato per le imprese 18 miliardi di rate sospese di mutui, altre no, per esempio la questione Basilea. Basilea 3 continua a determinare una dimensione di prociclicità, non permette di valutare appieno gli elementi cosiddetti qualitativi delle imprese, cioè la valutazione di futuro, e chiaramente in una fase come questa, in cui molte piccole imprese, la maggior parte, sono orientate al mercato domestico che purtroppo contrae e quindi determina cali di fatturato, comporta il fatto che la situazione, come dire, determina un circolo vizioso dell'economia. Quindi abbiamo una questione Banca d'Italia sulla questione credito, ma la questione strutturale va risolta dal punto di vista di scelte politiche orientate alla crescita. Affrontare la sola questione del credito significa risolvere questioni dal punto di vista temporale importanti e necessarie, ma non significa risolverle strutturalmente. Quindi la gamba della politica economica diventa determinante. Che cosa chiederete al governo, Boccia? Perché insomma, adesso immaginiamo che lunedì il governo arrivi, o meglio domani i giuri, e lunedì sia operativo. Voi dovreste andare subito a battere su questo punto, perché qui il problema è guadagnare tempo, comprare tempo, come dicono gli americani, perché noi possiamo anche fare la miglior legge sulle piccole imprese, ma se entra in vigore fra un anno e mezzo, auguri. Esattamente come dice lei. Abbiamo bisogno di scelte importanti, urgenti e che abbiano degli effetti immediati sull'economia reale. E tra l'altro evitare anche di creare delle aspettative che poi vengono deluse, perché questo crea un'ulteriore ansietà nel sistema dell'economia. Cioè, se noi dichiariamo che la pubblica amministrazione pagherà i famosi 40 miliardi, il lasso di tempo che passa dal dichiarato al realizzato deve essere minimo possibile, altrimenti si crea un'altra distorsione nel sistema. Che cosa chiederemo? La prima cosa evidente: di risolvere quanto prima la questione debito in termini di stock di debito della pubblica amministrazione verso le imprese, e di risolverlo quanto prima sia per una questione di flusso di credito, perché parliamo di oltre 100 miliardi di euro, e sia per una questione di fiducia, perché le due cose vanno insieme. Chiaramente questa è una condizione necessaria ma non sufficiente, perché mette solo in condizioni di normalità il Paese ma non in condizioni di competitività, e quindi parallelamente e immediatamente insieme a un'operazione come questa costruire un percorso rispondendo ad una domanda che per noi, diciamo, ha una risposta semplicissima, cioè se questo Paese vuole continuare ad essere e rimanere un Paese industriale, e se è un Paese industriale quale industria vuole immaginare, e quindi di conseguenza quale livello di tassazione, quale costo dell'energia nell'immediato queste aziende devono, tra virgolette, subire in rapporto alla concorrenza per esempio tedesca. Guardi, lo spread alto, il costo dell'energia più alto rispetto ai tedeschi, il global tax rate più alto rispetto ai tedeschi, sono dei segnali che sul medio termine porterebbero alla paralisi il sistema industriale italiano. Noi siamo ad un bivio, il Paese ha tutte le potenzialità dal punto di vista industriale e non solo per uscire da una situazione di difficoltà in cui è, ma il fattore temporale questa volta è determinante. Noi ci auguriamo, abbiamo un'aspettativa alta, chiaramente questo governo si differenzi per scelte sui contenuti, non ci interessa con chi si allea, ma ci interessa cosa fa e cosa fa nell'immediato. Scelte sui contenuti, mi risponde in un minuto e mezzo, in un minuto boccia a questa cosa, però alcuni ascoltatori, immagino che lavorano in banca, dicono sì, però se poi le piccole imprese chiedono soldi per pagare le tasse o i dipendenti, non sono soldi per investimenti. Beh, hanno ragione, è chiaro che una delle richieste maggiori è stata di circolante, non di investimenti. Ripeto, se non usciamo dall'ansietà, l'ansietà comporta che i consumatori non consumano e gli investitori non investono. L'ansietà è una dimensione della politica economica del Paese. Allora noi dobbiamo coniugare impegno e visione. Questa visione fino ad oggi non c'è. È quella che chiediamo alla politica, di recuperare il suo primato attraverso scelte di politiche economiche coerenti e che siano in linea con un Paese industriale come il nostro. Io vi auguro in bocca al lupo a lei, ma soprattutto a tutte le migliaia di piccoli imprenditori, ma includo anche gli artigiani, il mondo del commercio, che ripeto, così come i giovani e le donne giovani sono la categoria sociale su cui si sta scaricando di più questa crisi, le imprese piccole e manifatturiere sono la categoria produttiva su cui questa crisi sta mordendo di più. Lo devono capire a Bruxelles, a Francoforte, a Berlino e anche a Roma. Grazie a Guido Gentili, grazie al presidente della piccola industria e Confindustria Vincenzo Boccia. C'è il GR, poi invece andiamo con la borsa e torna il mitico uccellaccio Sapelli per farci capire dove ci porterà questo governo, probabilmente Letta. Alle 18:08 minuti riprende la seconda parte di Focus Economia e allora andiamo alla borsa e poi agli scenari che si stanno delineando a Roma ma anche e soprattutto a Bruxelles. Ricordo che oggi la Spagna ha ottenuto ufficialmente di spostare di 2 anni il rientro dal deficit. Ancora Non ho visto reazioni dalla Germania. Comunque, la borsa in primo luogo. Tutte deboli oggi le borse in Europa, meno 0,50 a Milano, meno 0,80 a Parigi, meno 0,20 a Francoforte, meno 0,25 a Londra. L'America in questo momento è invariata, l'euro è fermo a quota 1,30 sul dollaro. Come sempre la borsa la facciamo con Radio Corriere sulle 24 ore. Chiara Di Cristofaro, buonasera. Buonasera Sebastiano. Un po' di prese di beneficio, un po' deludenti anche i dati sul PIL americano oggi, no? Sì, quel dato è risultato inferiore alle attese, più 2,5, ci si aspettava tra il 3 e il 3,2, è comunque un buon rialzo, ma non è servito, diciamo, a migliorare il tono delle borse. Ha fatto un po' meglio invece l'indice sulla fiducia dei consumatori del Michigan, che è risultato migliore delle attese, e infatti le borse hanno un pochino ridotto le perdite sul finale, insomma hanno chiuso comunque sopra i minimi. Ancora, per quello che riguarda i titoli, il peggiore Banco Popolare, tra quelle maggiore capitalizzazione, meno 3,66%, poi Prismian, l'ex Pirelli Cavi, meno 2,30% come A2A e Fiat, Finmeccanica perde l'1,90% come Mediaset e UbiBank, Buzzi Unicem perde l'1,80%, Enel Green Power meno 1,70%. Il miglior titolo però è Saipem, più 2,60%, Saipem. Sì, Saipem oggi ha beneficiato della promozione da parte di Morgan Stanley, è uscito un report stamattina, la banca d'affari ha alzato il rating da equal weight a overweight, quindi sovrappesare le azioni in portafoglio, e ha migliorato il prezzo obiettivo alzandolo da 25 a 30 euro, calcoliamo che oggi ha chiuso a 21,39, quindi un upside, un potenziale di crescita veramente elevato rispetto ai livelli attuali. C'è anche da dire che comunque a inizio settimana Saipem aveva perso parecchio dopo la pubblicazione dei conti trimestrali, l'utile, lo ricordiamo, era sceso di oltre il 50% a 110 milioni di euro. Ancora spread in leggero rialzo oggi, Banco Popolare possiamo archiviarlo come un calo dovuto anche alla forte crescita di queste sedute? Sì, assolutamente, ha avuto 15 giorni di rally praticamente, per cui il calo di oggi sono prese di beneficio. Le banche alla fine della giornata si sono mosse, poi contrastate, stamattina erano tutte in calo, poi qualcuna ha recuperato, quindi hanno chiuso bene Intesa, Unicredit, mentre è andato giù il Banco Popolare, la Popolare Emilia Romagna, debole anche la Popolare Milano che è in tensione in vista dell'assemblea. Discorso a parte per il Monte dei Paschi di Siena, che sin dalle prime battute della mattinata era sì, qui c'è l'intervista anche di Viola del ministro legato su Sole 24 Ore. Esatto, questa intervista ha dato qualche spunto. Viola ha ipotizzato un aumento di capitale per la banca solo nel 2014, ha ribadito di voler evitare la nazionalizzazione e di voler rimborsare i Monte Bond entro il prossimo anno. Lunedì i soci del Monte Paschi si riuniranno per approvare il bilancio e sul titolo c'è comunque una certa attesa. Il mondo delle popolari, visto che la Popolare di Milano si trasforma in SPA e quindi perde lo status di banca popolare, c'è un'intervista oggi sul Messaggero del neopresidente di UbiBanca, il quale però esclude, se ben capito, no? È contrario alla trasformazione di UbiBanca in banca SPA e non più banca popolare. Esatto, pur non entrando nel merito di quanto sta accadendo nella Popolare di Milano, lui ha precisato ogni banca popolare ha la sua storia, per quanto riguarda UbiBanca ha escluso quest'ipotesi, questa invece era un'ipotesi che aveva spinto abbastanza al rialzo il titolo nell'ultimo periodo, si era immaginato che Ubi potesse fare seguire la scia BPM e oggi è stato infatti particolarmente penalizzato. Ancora Fiat, meno 2,25%, è salita molto durante la settimana Fiat, sì. Qui sullo sfondo però c'è la fusione con Chrysler, tra l'altro con un nodo non indifferente e non irrilevante sul prezzo. Esatto, proprio così, il titolo è salito in 4 sedute del 15% e a spingere erano state proprio queste indiscrezioni secondo cui Lingotto avrebbe allo studio prima l'incremento della quota in Chrysler da 58,5 al 100% e poi la quotazione dell'intero gruppo post fusione a Wall Street. Il nodo, come giustamente ricordavi tu, è quello relativo alle modalità di uscita del fondo BEBA, quello controllato dal sindacato, dal capitale di Chrysler, decisivo per la determinazione del prezzo. Ieri c'è stata una prima udienza, il giudice è sembrato essere orientato a favore di BEBA e questo oggi un po' ha fatto scattare i realizzi dopo il forte aumento, però una decisione definitiva ci sarà entro giugno e questo sarà un passaggio fondamentale per delineare poi le strategie future di tutto Lingotto. Debole oggi il lusso sulla scia dei conti di PPR e infatti abbiamo visto anche il lusso a casa nostra, Luxottica -1 è 24%, cito un titolo su tutti. Per quello che riguarda altre variazioni percentuali segnalo appunto il Monte dei Paschi +0,70% e Telecom Italia +0,60%, i migliori e peggiori in assoluto: Munich Re -5,33, Impregilo -4,95, tra chi va bene invece Meteorius Capital +10,50, Compagnia della Ruota +10,30, Moleskine si ripiglia +9,5%, Seat Pagine Gialle +5,13%, D'Amico International +4,16%. Grazie e buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore, grazie quindi a Chiara De Cristofaro. Grazie Sebastiano, buon fine settimana. E adesso andiamo con il traffico e poi l'uccellaccio che è tornato dopo il 25 aprile a volare sulle nostre teste e a cercare di farci capire quali scenari si potrebbero porre una volta fatto il governo Letta, ammesso e non concesso che venga fatto, il dubitativo è d'obbligo, però che rapporti di forza iniziamo a porre in Europa, cioè se l'Italia tornerà ad avere una politica estera anche europea, perché con il governo Monti obiettivamente la nostra politica estera in Europa è stata così timida delle volte quasi da scomparire. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Dunque, tra il 25 aprile e il 1 maggio non fa ponti, come molti italiani abbiamo scoperto ieri non lo fanno, non fa il ponte neanche l'uccellaccio che sta volteggiando sopra le nostre teste al secolo, il professor Giulio Sapelli, che insegna storia dell'economia alla Statale di Milano e che è nostro ospite ciclicamente, perché vogliamo anche farci del male, non ci bastano le notizie che arrivano da fuori. Professore, buonasera. Buonasera, attento Barisoni, io porto il bene dell'intelletto. Vabbè, porti il bene dell'intelletto, ma io qua invece dovrei... Che male. Allora, Sapelli, mi dica una cosa, perché qui adesso io vorrei far ascoltare quel passaggio di Enrico Letta che ha scatenato i timori tedeschi, visto che Schäuble ieri ha risposto, il ministro delle finanze tedesco, ha detto no, la smetta l'Italia... E il riferimento era Letta di dare la colpa alla Germania per problemi suoi, non, gli altri paesi non fanno questo e fanno i compiti a casa. Sentiamo che cosa ha irritato così tanto i tedeschi. Parlerò con tutte le forze politiche presenti in Parlamento, soprattutto perché su questi temi della riforma necessaria per ridurre il numero dei parlamentari, cambiare la legge elettorale, tutti gli elementi che oggi sono essenziali, dovremo farlo insieme con la più larga partecipazione possibile. Naturalmente tutto questo si può fare se l'Italia in Europa continua a tenere una linea di forte impegno perché cambi il timone, la barra delle politiche dell'Unione Europea troppo attente a politiche di austerità che, come ha detto anche il Presidente della Commissione Europea l'altro giorno, non sono più sufficienti. E chissà i tedeschi come prenderanno la notizia di poco fa, ossia che la Spagna ha avuto dalla Commissione Europea la possibilità di avere altri 2 anni per portare il deficit al 3% del PIL, quindi non più 2014 ma il 2016. Poco fa il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ha detto bene che la Spagna abbia avuto 2 anni in più, bene il lavoro spagnolo e continui sul risanamento. L'annuncio odierno per un risanamento più graduale è un passo positivo per centrare questi obiettivi. Sapelli, ma qua, allora, ieri sia la Banca Centrale Europea che la Commissione Europea che il Fondo Monetario hanno detto state accomodanti, date una mano all'economia, attenzione, dovete adottare misure per la crescita. Olli Rehn, il commissario europeo, ha detto bene, adesso è possibile allentare un po' il rigore visto che gli stati coinvolti, Italia, Spagna, Portogallo, stanno facendo i loro compiti a casa. Lo ha detto anche il vicepresidente della BCE, il rigore dei conti può rallentare, lo dice oggi la Lagarde, la Commissione Europea dà alla Spagna la possibilità di avere altri due anni. Si arrabbieranno molto Schäuble and Company? Beh, dunque Schäuble è inconsapevole, o forse lo è, ma deve mantenere le sue promesse elettorali, un tipico caso di colui che vede solo vicino e non guardi invece i grandi cambiamenti che nell'orizzonte mondiale sono in corso. È il vento che arriva dall'Asia, avete visto la grande modificazione della politica economica giapponese, il neo premier Abe ha fatto quello che noi dovremmo fare col nostro ragioniere, col nostro capo della ragioneria, diciamo, centrale, perché ha sostituito il governatore centrale giapponese e ne ha messo uno che fa una politica espansiva, quella politica che fa da anni la Federal Reserve americana e che ha consentito di continuare a galleggiare. Naturalmente la crisi sta mordendo profondamente le carni anche dell'Europa, avete visto i dati sulla disoccupazione spagnola, siamo quasi ai 6 milioni e mezzo di disoccupati, che è una cosa eccezionale, 27,6% di disoccupati. In Italia siamo ben oltre il 10% e le queste cifre sono non soltanto dell'Europa del Sud. La Germania è cosa che fa veramente, che fa capire come ormai la democrazia cristiana tedesca sia in mano ad una sorta di coazione, a ripetere, stolta, e perché anche le previsioni che loro fanno sulla crescita di quest'anno sono dallo 0,2 allo 0,3 e per il prossimo anno uno striminzito 1%, quindi la Germania comincia a vedere attorno a sé il deserto e la crisi incide profondamente nel tessuto sociale. Quindi le autorità monetarie internazionali, ha fatto bene a citare la Lagarde, il Fondo Monetario ha cambiato radicalmente, del resto devo dire viene meno anche la solidità scientifica di queste politiche. Sì, ne abbiamo parlato con il professor Prodi raccontando. Ah, ne avete già parlato prima. Sì, ecco, quindi erano truccati. Sì, voglio dire anche, questa è un po' una cosa sconcertante che ci fa dire come la crisi della classe dirigente investe anche le cosiddette tecnocrazie, bisognerà inventarsi un altro nome, perché noi diamo una parola tecnocrazia una valutazione positiva, ma quando invece abbiamo decine di migliaia di persone che dovrebbero far andare avanti il mondo sulla base di previsioni, ma che non sono neanche capaci di fare le statistiche in un modo giusto, beh, insomma, anche la vecchia scuola italiana di economia, ora tenuta un po' al guinzaglio dai nuovi neostatistici che hanno preso il potere in Italia con la ragioneria centrale e il ministro Grilli, dovrebbero starsene zitti, così come dovrebbero starsene zitti i nostri amici tedeschi, verso i quali dobbiamo cominciare ad avere un atteggiamento molto più fermo. Mi fa molto piacere quello che ha detto Letta, vuol dire che cominciamo, dopo questa triste parentesi montiana, ad avere un comportamento assertivo in Europa. L'Europa deve radicalmente cambiare politica monetaria, il primo compito è rinegoziare completamente il fiscal compact, non possiamo essere costretti a ringoiare l'olio di ricino così potentemente che ci condurrà al disastro. Sì, fiscal compact voluto dalla Germania, lo ricordo, per dare via libera poi agli aiuti della BCE, certo, alle banche e agli stati, prevede che il debito venga portato praticamente noi dovremmo ridurlo del 3% in 20 anni, perché deve essere il 60% rispetto all'attuale del PIL. Vuol dire che ogni anno per i prossimi 20 anni noi dovremmo fare una manovra solo sul debito di 60 miliardi di euro quasi. Capite che è una follia, no? È una totale follia, lo era appena questa cosa fu detta e oggi scopriamo che non ha nessuna base scientifica, è soltanto stato un modo sì, guarda per... che ci sono i due economisti che sono stati sbugiardati, sì. Carmen Reinhardt e Kenneth Rogoff, poco fa hanno detto a New York, abbiamo fatto solo piccoli errori di valutazioni e sono molto tristi gli attacchi che ci sono rivolti, sono una triste testimonianza della politicizzazione della ricerca della scienza sociale. Che è successo? Che i due economisti hanno pubblicato uno studio che è diventato la Bibbia per tutti quelli che dicono che l'austerità, e quindi tagliare i conti pubblici, e tagliare aiuta, deficit, la crescita, aiuta la crescita. Si è dimostrato che gli studi che avevano effettuato non tenevano conto, volutamente secondo me, di alcuni paesi, tra cui l'Australia, in cui ad alto debito c'era stata però un'alta crescita, che vuol dire che A, non c'è nessun rapporto stretto tra alto debito e crescita, che casomai, come ha detto giustamente a mio avviso Paul Krugman, è una bassa crescita che ti porta a un alto debito, non un alto debito che ti porta a una bassa crescita. Chiudo questo, sì, appunto, questo l'abbiamo detto anche noi, poveri miserelli, che non siamo, diciamo così, laureati con gli allori della Bocconi, l'avevamo già capito da molti anni, continuavamo a dire che questa politica era assurda e che ci avrebbe portato al disastro. Però voglio fare una domanda, Sapelli. Immaginiamo, sì, questo. Allora, Enrico Letta, stasera tutto va bene con Berlusconi, domani abbiamo un governo, sì, un governo, certo, politico, perché questo, sì, è il vicepresidente del PD e avrà politici, sì, al suo interno. L'Italia torna ad avere un governo politico e la grande proletaria, diciamo, si muove e va in Europa, appoggiata anche dalla Francia, perché Olanda è in estrema difficoltà in questo momento, sì, con la Spagna a cui va bene, e dice adesso facciamo di nuovo politica estera in Europa, basta dire sì signore Merkel o Frau Merkel ogni volta che apre bocca. Che cosa potrebbe succedere? Perché il nervosismo per una frase da 20 secondi che ho fatto sentire è già, insomma, venire attaccati dal ministro delle finanze tedesco, sciocco scaricare i problemi su Berlino, la dice lunga. Se non fossi, sono abituati in un'Italia troppo silenziosa, chiedo. Ma sicuramente sono stati abituati a un'Italia un po' troppo acquiescente, soprattutto quando non hai un governo politico e soprattutto personalità che non hanno una statura, che non hanno una capacità, che non hanno soprattutto una mentalità indipendente, che dipendono troppo dai circoli dell'oligopolio finanziario e da tutto quell'insieme di pseudotecnicismi che abbiamo visto come vanno a finire. Naturalmente, finalmente l'Italia, dopo due anni di marasma, grazie alla saggezza di Napolitano e devo dire all'intelligenza di Enrico Letta e di tutti coloro, tanto del PDL che del PD, di Scelta Strategica, la Lega anche, appoggiano finalmente in modi a geometria variabile questo governo, si potrà dire viva Dio che potremo cambiare politica estera. Cosa cambierà? I tedeschi dovranno adeguarsi, anche perché le elezioni sono vicine. Quindi anche se la Merkel vincesse le elezioni non potrebbe continuare a fare la stessa politica economica, perché come dicevo prima la crisi è in Germania, il mercato interno si sta rivelando importante anche per la Germania, perché i paesi emergenti, Cina, Russia, Sudafrica, India, non hanno più quei tassi di crescita che avevamo previsto tutti, meno che noi eravamo molto incerti, perché io non credo che si possa preconizzare alti tassi di crescita quando questi alti tassi di crescita sono visti solo all'esportazione. Non si può crescere se non si ha anche un aumento della massa salariale e quindi dei mercati interni. Ecco, questo è il problema di fondo che adesso viene, il nodo che viene al pettine. Bisogna avere una crescita equilibrata, perché bisogna ricordarsi che le imprese, non tutte le imprese lavorano per il mercato estero. Ah no, solo una piccola parte. È solo una esigua minoranza. I due terzi sostanzialmente. I due terzi. Quindi questa un terzo sta sull'estero e i due terzi stanno in Italia. Appunto, tutta questa fanfara, ma c'è chi è? Non ce la fa ad asportare per dimensioni, ma anche per tecnologie, anche per Sapere, ne vedremo delle belle prima che lei riprenda il volo, non so verso quali lidi. Ma credo che sarà un orizzonte che lentamente, ma ci vorrà molto tempo, ci vorranno ancora alcuni anni, tornerà chiaro. No, ma dico, ma nel rapporto con nei paesi di forza europei, nel dire che nei paesi di forza europei bisogna naturalmente fare una politica intelligente ed aggregarsi anche alle nuove nazioni dell'est che sono appena entrate, che hanno delle difficoltà. No. Io dico solo una cosa, è importante stabilire un rapporto anche con la Polonia, che è un paese che va molto bene, è insofferente del diktat tedesco, quindi bisogna allargare l'area della Francia sull'Europa e intercettare anche le esigenze di cambiamento, un paese di grande cultura che va più d'accordo con noi che con il che con la Germania. Io faccio una chiosa a questo, trovo insopportabile, lo dico per una seconda volta in questo programma oggi, continuare a parlare di paesi periferici, paesi del nord e del sud mi sta bene, periferico a chi? Nel senso che è già denigrativo parlare di paesi periferici, come se vi fosse un'Europa centrale e poi un po' di periferia da così bacchettare ogni tanto. Sapelli, se ne voli altrove, buon primo maggio e buon fine settimana se non la sentiamo nel frattempo, così come un augurio di buon fine settimana a voi in ascolto da Sebastiano Barisoni. E un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, Filippo Reggi per l'assistenza in regia. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.